sul vetro le gocce, una quando cade le porta via con sé. Nel baratro giù in fondo, in mezzo a tutto il resto, confusa, assorbita dalla banalità. Come quando dentro piove, come quando piove. Come quando dentro piove, come quando piove. Giornalmente muoio nei miseri pensieri, in questa nostra agida normalità. E intendo traslocare dal luogo comune, emanciparmi, avanzare verso la verità. Distante mille miglia dall'essere banale, continua evoluzione seguendo un ideale, urlando la mia voce potente come un tuono. Impongo il mio diritto a non chiedere perdono. Dentro piove come quando piove. Come quando dentro piove come quando piove. La musica non torna mai quello che vuoi, ma solo ciò di cui hai bisogno. Ed una corda rotta può essere lo spunto per una solo diverso. Il sangue mi ribolle in testa e nelle vene, non voglio conformarmi e spezzare le catene. Non so se esiste un Dio, ma sento superato, io intendo migliorarmi imparando dal passato. Io intendo migliorarmi imparando dal passato. Quando dentro piove, come quando piove. Come quando dentro piove, come quando piove.